Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que. Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol. Tu pinche bebé, dale 17, 87 y 9 de Radio Onda Rossa. Pueblo se tiene que unir para luchar. Para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Sur y Frecuencia de Radio Onda Rosa. Allora 17-6 minuti oggi, minuti ci servono come l'aria perché abbiamo un sacco di cose da fare. Allora, intanto ben trovati, ciao Attica Blues, io li saluto sempre con piacere perché sapete che qua siamo praticamente un palinsesto tutto unito, ci si passa la mano, le battute, le birre, le truz. E allora, le 17-6 minuti, 87-9 di Onda Rossa, come sapete oggi non è un giorno qualsiasi perché quando muore un rivoluzionario... sto problemi di gas soprattutto di questi tempi, e poi quando muore Raul Castro, dico Fidel Castro, Raul si trova a trovare, insomma, ha detto delle parole bellissime, forse non vorrei essere nei suoi panni in questo momento, ma a Cuba la rivoluzione la porta avanti il suo popolo, e poi diciamo che noi primomondizzati, diciamo così, i primomondizzati poi che se la piano con Cuba, in un paese dove tra un po' manco se potremo più le vanacarie, i nostri figli vanno a morire nelle scuole sotto pezzi di intonaco che gli cascano in testa e a perdere il desiderio di studiare, direi che prima di criticare Cuba contiamo almeno fino a 170 milioni. E allora lui è già partito, ma io voglio rimetterlo da capo perché non potevamo che aprire oggi col Corrido della Sierra Maestra, quel corrido che racconta le gesta, la vita non solo di Fidel ma anche dei suoi compagni, insomma era una bella squadretta, vengo di brividi solo a pensarla. E intanto noi comporremo il numero del grande Andrea Paolieri che, come ha detto già qualcuno anticipato, ci aiuterà così a farci uscire la lacrima. Lui che Cuba l'ha attraversata, l'ha vissuta, ha respirato la sua aria e si è mischiato nel suo popolo per respirare Cuba e Fidel un po' dappertutto. Quindi non ci sembrava veramente che nessuno meglio di lui ci potesse dare una mano. E allora un po' del Corrido della Sierra Maestra e poi Andrea Paolieri insieme a noi. Estremeció el día primero de enero cuando Batista cayó. Desde la Sierra Maestra Castro Ruz lo combatió, ayudado estrategrama partió a Cuba Castro Ruz con sus 80 valientes desde Tuxpan, Veracruz. Por fin el 2 de diciembre del año 56 llegó a las playas de Oriente contra Batista Fidel. A Cuba volvió la luz con esta revolución. Ya la ganó Castro Ruz, jugándose el corazón. ¡Ay! ¡Y no los dejamos picados! ¡Sigue la segunda parte! Se fue a la Sierra Maestra, más de 2 años peleó con solo unos cuantos hombres, pero el pueblo lo apoyó. 70,000 batistianos nunca pudieron con él, y eran hombres entrenados para acabar con Fidel. Nunca en la Sierra Maestra un prisionero mató, pensaba que eran hermanos y a todos los perdonó. En cambio el chacal Batista a todos atormentó, depravado y con sadismo a 20,000 los mató. A Cuba volvió la luz con esta revolución. Ya la ganó Castro Ruz, jugándose el corazón. Fueron muchos criminales y Fidel los enjuició con la justicia del pueblo. Falta un interesado que por esto protestó, pues no sufrió en carne propia lo que Cuba padeció. De los 80 valientes con que Fidel comenzó, hay 12 supervivientes, el resto la vida dio. Quedan Almeida y Cienfuegos, famoso Che, también Raúl el hermano del guerrillero. E allora alle 17:14 minuti io sfumo questo lunghissimo corrido della, alla Sierra Maestra, che narra non solo le gesta ma anche la vita di Fidel. E intanto al telefono, come vi avevo annunciato, ciao Andrea, grande. Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e della Schina del Sol. Allora, io dicevo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che chi meglio di te, che insomma ti sei ben vissuto Cuba, ci potevi far uscire un po' la lacrimuccia. Io, così, l'emozione mia, tua, ce la siamo raccontata. Io vorrei che facessi un po' piangere Roma, ecco, vediamo se ci riusciamo. Nel senso che perché guarda, credo che ci sia bisogno poi di rispolverare di fronte a tante critiche del nostro triste Occidente un po' anche il popolo di Cuba, come trasmetteva Fidel nel suo sangue, nella sua carne, e come lui era poi l'esaltazione a mille della rivoluzione che era stata compiuta. Però ecco, diciamo, lascio a te questo compito. Accidenti, un compito molto arduo e difficile. Ma Marta, guarda, come ti dicevo quando mi hai chiesto di partecipare a questo ricordo di Fidel, ti ho detto subito di sì, perché io tutto quello che sono a livello etico e morale lo devo veramente a Fidel. Per me Cuba è stato il vero spartiacque che mi ha fatto capire bene dove dovevo stare, quando a solo 18 anni ci misi piede per la prima volta. Ma non solo, negli anni a venire Cuba mi ha dato la possibilità di fare l'università, cosa che mi sarebbe sicuramente stata impossibile in Italia, ma soprattutto formarmi con un'etica e morale rivoluzionaria. Dici, ma che vuol dire tutto questo? Ma formarsi a Cuba vuol dire svegliarsi la mattina molto presto, lavarsi con l'acqua fredda, fare colazione con pane, burro e caffè quando c'è, e farti 4-5 km a piedi se va bene per andare al lavoro o a scuola. Dopodiché quando si finisce il lavoro c'è da sperare di trovare gli alimenti necessari come il latte, il pane, le uova, che in alcuni mesi dell'anno mancano anche a causa del blocco e degli uragani. Ma questo per dire cosa, Marta? Primo, che Fidel, anche dal punto di vista economico, ha vinto. Perché se pensate che il PIL cubano è pari a quello di una media provincia italiana e che il blocco ogni giorno procura danni economici per 500.000 euro, che a Cuba ha passato anni di isolamento totale dal resto del mondo dopo la caduta del campo sovietico e non ha mai smesso di garantire una totale sanità pubblica, un'educazione gratuita e un'assistenza previdenziale e sociale ad altissimi livelli, esportando medici ed educatori in tutto il mondo e partecipando con l'esercito cubano in una sola guerra, quella della liberazione dall'apartheid in Sudafrica, liberando l'Angola. Beh, questo ci fa capire la grandezza politica di quest'uomo e di questa rivoluzione. Certo, infatti leggevo anche tanti messaggi di tanti personaggi delle istituzioni sudafricane che scrivevano un ricordo quasi pari ai cubani, no? A quanto in Sudafrica poi è stato interiorizzato Fidel, si veda accanto a Mandela come un eroe anche della rivoluzione contro l'apartheid, no? No, guarda, questo era il secondo punto di cui ti volevo parlare, proprio dal punto di vista anche etico e morale, di come mi sono formato nell'università, alla facoltà di filosofia e storia, dove ho fatto storia della cultura cubana. Con me in classe c'erano vietnamiti, somali, ragazzi del Sahrawi, appunto dell'Angola, quindi era per raccontarti un po' la mia esperienza, per farti capire un po' cosa ci lascia, no, Fidel, quindi al senso dell'antirazzismo, l'anticlassismo. Con me alla facoltà, ti ho detto, c'erano di tutte le estrazioni non sociali, perché comunque Cuba è un paese dove non ci sono classi sociali, perché non esistono famiglie che posseggono 6 ville, 10 appartamenti, 12 macchine come può essere in Italia. A Cuba l'unica proprietà al massimo di valore è l'automobile. Quindi non puoi capire, io che venivo da un mondo dove non esiste più il senso anche di comunità, che per soltanto semplicemente ritrovarti alla sera fra ragazzi si utilizza il WhatsApp, quindi un metodo comunque personale, un po' egoistico, ci si ritrova solo col migliore amico, e non esistono più le grandi compagnie che si danno appuntamento, no, al pomeriggio, oppure ci vediamo tutti lì la sera. E se ti posso rubare un altro minuto, ti volevo raccontare anche un aneddoto che mi è capitato nel 2008, sempre quando ho fatto questa esperienza all'università, perché ci furono 2 uragani molto forti che, come si dice in cubano, quasi acabaron con Pinar del Rio, che è la parte occidentale dell'isola, e noi con la FEU, la Federazione Studentesca Universitaria, decidemmo in piena autonomia, senza ordine all'alto, in posizione di formare una brigata dell'Università dell'Havana per andare a ricostruire le devastazioni dell'uragano. Perché un cubano, anche se di soli 18 anni, sente il dolore di un altro essere umano come se fosse sulla propria pelle. E noi lo facemmo con spirito di saltare le classi, bensì con quello di comunità che ci aiuta nei momenti del bisogno. Subito al primo giorno di brigata, Marta venne Fidel. Quindi mi emoziono un po', scusa. No, ma è giusto, perché questo pure credo che abbia insegnato a Fidel: nessuna rivoluzione, esatto, lascia un leader puro, perché ogni rivoluzione ha bisogno di sangue, probabilmente di vittime. Quello che bisogna imparare è che dopo aver fatto la rivoluzione, questo poi mi viene la lacrimuccia a me, anche a mettere insieme questi due nomi ce l'ha insegnato forse Vittorio Arrigone, rimanendo profondamente umani, no? Forse Vittorio l'aveva imparato dal CE, chissà. Esatto. E per finirti il racconto, niente, quando si fermò a salutarci fu un incontro unico, eccezionale, no? Fidel applaudì gli universitari, rispose ad ogni domanda, di incertezza, dubbio, in maniera da padre di famiglia, e con lo stesso spirito i ragazzi lo ringraziavano per il suo lavoro, la sua lotta e per avergli regalato la rivoluzione che difenderanno in eterno. No, non so, Marta, è difficile. Guarda, io un'altra cosa. Sì, sì, no, beh, credo che tu con questi esempi sia stato molto, sì, molto chiaro. Io appunto poi penso al tuo inizio, no? Alzarsi la mattina, lavarsi con l'acqua fredda, camminare 4-5 km. Io mi ricordo in Chiapas, sì, bambini che si alzavano, si lavavano con l'acqua fredda al freddo e camminavano 4-5 km per andare a lavorare il caffè. E spesso questo era circondato anche da militari che prendevano in giro le loro madri quando gli mettevano le mani addosso. E allora la questione dei chilometri è per quello che tu puoi avere, perché anche i nostri contadini hanno camminato chilometri. Il problema è che cosa ti ripaga, qual è il paese che tu hai intorno. E allora farlo perché si è schiavi di un presidente infame, di un paese che ti sfrutta, di un esercito che ti violenta, è ben diverso che camminare 4-5 chilometri perché tutti hanno il diritto all'istruzione, perché tutti camminano con le scarpe, perché sì, probabilmente noi siamo interiorizzata così tanto la proprietà privata che non avere ciò che vogliamo ci rimanda subito al concetto di miseria. Ma quando non c'è la competitività, la competizione della forma, probabilmente la sostanza ne guadagna in umanità, in condivisione, in socialismo, ecco. No, esatto, hai sintetizzato benissimo il mio pensiero. Se poi posso lasciarti un altro pensiero giusto su questi giorni di lutto, come ti puoi immaginare, sabato in casa mia, io assieme a mia moglie Federica, abbiamo vissuto questi momenti, insomma, con un telefono che squillava di continuo, con la lacrimuccia che continuava a scendere di tanto in tanto. Però ecco, mi rincuorava sempre vedere quelle immagini che riuscivo ad ottenere da Telesur oppure da Cuba Debate, della Plaza della Rivoluzione, di queste centinaia di milioni, no? Di migliaia, scusami, di persone che hanno reso omaggio a Fidel. Puoi capire appunto l'amore che trasmetteva questa persona. Mi è venuto un po' da pensare a un film, non so se l'hai mai visto, ma lo consiglio veramente a tutti, un film russo-cubano, Soy Cuba. Quando a un certo punto del film alcuni militari della dittatura batistiana catturano prigionieri dei ribelli, no? E iniziano a chiedergli: chi di voi è Fidel Castro? E scende un silenzio assoluto. Poi prima uno, poi un altro, iniziano a fare un passo avanti, a dire: io sono Fidel, io sono Fidel, io sono Fidel. Ecco, in quelle immagini mi è venuto da pensare nuovamente a quel film, anche perché, come ti dicevo prima, dalla mia esperienza personale alla università, noi abbiamo giurato, all'epoca ero un giovane, che lo jóvenes no fallarán, e questa è una promessa che sicuramente manterremo, soprattutto continuando a coltivare, ad esprimere, ad esportare i valori come quello della solidarietà internazionale, che ha reso anche Cuba un'eccellenza a livello mondiale. Andrea, sì, io credo comunque che della aria a casa vostra ne faranno tesoro, una gran fortuna anche per chi, per i vostri pargoli, so che sono tanti, ma credo che questi sono momenti che si leggono casomai senza capire proprio tutto, ma che poi rimangono in testa, no? E quindi insomma, avete fatto una bella cosa nella vostra tristezza, qualcosa credo facendolo qui di molto rivoluzionario, ecco. Andrea, Marta, senti, guarda, soltanto una cosa, certo, perché veramente di Fidel ci sarebbe da parlare ore, ma non solo di Fidel, ovviamente di Fidel e della rivoluzione cubana, che poi è quello che ci lascia oggi. Oggi, come tu sai, è la giornata mondiale della lotta contro l'AIDS, no? Sì, esattamente. Beh, l'unico paese al mondo che oggi ha tagliato la trasmissione dell'HIV madre figlio è proprio Cuba. Ecco, io direi che questo è significativo, così come, ecco, c'era chi diceva che gli Stati Uniti si vogliono mangiare Cuba proprio per la ricerca medico-scientifica, insomma, il che la dice lunga. Andrea, io ti abbraccio, ti ringrazio tantissimo. Io sono sicura che poi ci sentiremo presto, oltre che per parlare di Cuba, anche per grandi progetti che hai, che so che insomma avranno grandi evoluzioni. Bene. Mandiamo bene, insieme. Io ringrazio te, Marta, come sempre, il tuo bellissimo programma e tutta Radio Onda Rossa. Un abbraccio forte e ci vediamo presto, ormai faremo un macello, io lo so. Grazie ancora, saluta Federica. Scusami Marta, dimmi. Un saluto infine, perché so che una persona voleva essere sicuramente con noi oggi, perché sente anche lui molto la figura del comandante Fidel Castro, che è Alessandro Landi, a cui gli mando un forte, grande, caloroso abbraccio. Anche grazie, io. Marta. Un abbraccio, ciao Andrea, grazie ancora. Ciao Marta, ciao. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda, oye. Que dices que lo tuyo no es tan bueno. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo. Una luna tan brillante como aquella. Que se filtra en la dulzura de la caña. Un Fidel que vibra en la montaña. Un rubí, cinco franjas y una estrella. Un Fidel que vibra en la montaña. Un rubí, cinco franjas. Cuba, que nada siente la tierra. Cuba, que linda es Cuba, que nada siente la tierra. allora ancora grazie Andrea, veramente è bello poter avere persone insomma che ci aiutano a dare così un senso più a 360 gradi di quello che vogliamo fare, e insomma lo sappiamo, da soli non si va da nessuna parte, eh? Questi suoni li conoscete fin troppo bene, direi. Ma conoscete pure questi altri. E allora Dome, scusa, oggi andiamo un po' di corsa. Mai, io non ci vado mai, eh. Eccoti, eh. Sì. Ora ci sei. Sputaci proprio dentro. Ciao a tutte, ciao. Fai finta che è il tuo sax. Domenico, sì, sono Domenico, sax degli Scasso, ormai sezione Ottoni che cresce, eh. Ha voglia che cresce. Ma insomma, io oggi non voglio parlare di voi, non perché abbiamo litigato. No, scherzo, è chiaro che sono qui per parlare degli Scasso che, come sapete, come avete sentito anche dal mitico spottino, oggi sono portato anche il flyer, sabato sono in concerto alla SNIA. Questa volta non per Onda Rossa, ma per conquistare sempre la città, lo sapete, sempre da Onda Rossa si comincia, la base della rivoluzione. No, insomma, adesso scherzi a parte, non sono scherzi, però insomma, ciance a parte, perché questo concerto è il primo di un percorso che vuole arrivare a una cosa pazzesca, una cosa più grande, e sì. Qui lascio a te la parola. Grazie Marta. Allora quindi parliamo del 3 dicembre, che è la prima serata, a sostegno di un progetto che abbiamo pensato fosse il momento di mettere in atto e di cominciare a lavorarci, che è quello dello Scafest, che per la prima volta mi trovo qui a parlarne, quindi spero di arrivare insomma a tutti quanti. Il progetto parte da un'esigenza, che è quella di riprendere non solo la musica ska, ma anche tutto quello che c'è dietro appunto alla corrente dello ska, cioè la corrente culturale, politica, che spesso viene un po' messo, diciamo, nascosto dalle fantastiche sonorità dello ska, appunto, che è molto divertenti, che coinvolgono tutti e che spesso fanno trovare a confronto pure realtà molto diverse, cioè a partire da, che ne so, da Red Skinhead a finire al mod, appunto, che ancora oggi ci ritroviamo ad avere a che fare con questa tipologia di, tra virgolette, di stili di vita e di stili pure, diciamo, vestiari, insomma. E li vediamo spesso a confronto durante le nostre serate. Quindi l'intento è quello di arrivare a questa meta, lo Scafest, che si terrà quest'estate. Intanto questa sarà la prima data e spero che tutte e tutti veniate a sostenerci, insomma. Certo, anche perché voi, appunto, tra i gruppi rappresentativi della scena ska romana, sapete quanto è un po' faticoso. Lo ska è un po' sparito da questa città, vero? Sì, infatti l'intento è quello di farlo ritornare col suo fervore, ecco. Anche con la sua orizzontalità, nel senso che sarebbe bello anche, appunto, tornare ad ascoltare ska a quadretti bianchi e neri, ma anche coi dread, per esempio, oppure vestiti un po' panchettoni, nel senso che appunto. Io quello che cerco di dire sempre è che ognuno di noi ha il suo genere del momento, oppure preferito, si sente più in un modo che in un altro, ma questo non leva che poi si possa annusare la musica un po' a 360 gradi, no? Fare proprio anche altri generi. E quindi niente, sabato 3 abbiamo, non so, vogliamo parlare anche un attimo del programma della serata, ci sarà una cena sociale. C'è un sacco di gente che vi aiuta, non a caso, immagino che poi sono quelli che vi aiutano a portare avanti il progetto. Certo, abbiamo creato questo nuovo collettivo, Sons of Beat, che appunto promuove lo Scafest e che organizzerà la cena sociale a sostegno anche essa del progetto stesso. E quindi vi attendiamo tutti dalle 20 in poi per fare questa bella mangiata tutti insieme. Subito dopo, verso le 22:30, inizierà il concerto, il nostro live scasso, per poi seguire con una dancehall fino al mattino, speriamo, di Fabio B da Radio Onda Rossa e Sunny Roots from Roots Family, appunto, come dice pure la locandina. Insomma, quindi come vedete si creano grandi famiglie, basta schioccare le dita all'occorrenza, sì. Le cose fatte in maniera trasversale, si crea tanta positività. E allora ne vedrete delle belle, direi, certo, questa città verrà scassinata per bene in questo inverno per arrivare al culmine dello Scafest di quest'estate. Allora, intanto in bocca al lupo. Poi, Crevi, insomma, anzi, viva il lupo. Viva il lupo, e il cavallo. Che dire, se non vuoi aggiungere altro, oggi purtroppo siamo così di corsa, no, certo, perché io certo devo celebrare la mitica intervista col signor Ciancio. Ripeto semplicemente i dati un attimo della serata, così almeno tutti e tutte possiamo sapere dove siamo. Allora, sabato 3 dicembre al CSA ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173, ci sarà questo prima serata a sostegno dello Scafest e ci saremo noi scasso ad attendervi sompettanti. Quindi venite tutte e tutti e ci vediamo sabato. Grazie. Dai. Grande Marta. E figurati, grazie a voi. Allora, io intanto vorrei unire lo ska e Cuba, e non mi viene automatico ska cubano. Campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical cuando voy bailando. Cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia tropical, cumbia de Colombia. Cumbia tropical. Ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño. Sei campesino. E allora, quello che andiamo a fare dopo questo bellissimo brano sarà quello di mandarvi il file in spagnolo dell'intervista al signor Ciancio e io vi farò una traduzione simultanea. Quindi ecco. Avrete pazienza, immagino. Se poi vedo che non sarà poi troppo maneggevole, facciamo che ve ne tradurrò una parte, poi la metteremo online di modo che possiate ascoltarla nella sua versione integrale. Sono comunque 25 minuti, non è troppo. La interromperemo anche con qualche brano, quindi dai, non cambiate subito, almeno provateci. Come ci proverò io del resto. Cuando voy bailando, cumbia tropical, cuando voy bailando, cumbia tropical, cumbia, cumbia, E allora abbiamo avuto la fortuna di incontrare, ormai insomma la cumbia crea le sue connessioni, abbiamo avuto la fortuna di incontrare qui il signor Ciancio che ci è venuto a trovare insieme alla sua compagna, e allora abbiamo approfittato in questa giornata di pioggia, non potendolo ospitare in trasmissione, per comunque fargli raccontare un po' del suo personaggio. Allora, chiaramente io poi vi farò la traduzione, ma intanto si parlerà spagnolo. Allora, primero bienvenido y bienvenidas. Y bueno, yo te pregunto primero cómo naces como músico, como apasionado de música. Y allora, ¿cómo nasci tú como musicista, apasionado de música? Bueno, ¿cómo entra la cumbia en la tua vida? Buenas noches, muchas gracias Marta por tenernos aquí, por traer la cumbia a Italia. La forma en que parto, bueno, parto como músico desde pequeño, tocando guitarra, tocando después un poco de percusiones, doy una vuelta como bien grande por muchos instrumentos. Comienzo con las percusiones, sonando la guitarra, giro por muchos instrumentos. Y mucha cosa como escolar. Anche generi musicali, el pop, el metal, el rock. Básicamente tocando cose molto scolastiche. En lugares, tocando en fiestas, en casas. Fondamentalmente toccando in feste a casa di persone conosciute, di amici, per amore all'arte. E 100% per amore all'arte, senza mai farci pagare, sempre per amore arte e pura amicizia. Después de eso ya me conecté un poco más con la computación porque me gusta mucho la tecnología. Poi come amo molto la tecnologia ho cominciato a metterci in mezzo la elettronica, sobre todo il computer, software, i software che si utilizzano per fare musica elettronica. Y paralelamente siempre escuché mucha música distinta. Desde mis comienzos en la niñez con la cumbia que se escucha siempre. E poi sempre ascoltato sempre musica del caso, di cassetta, di casa. Del Dia Nazionale. Quindi la cumbia è quella che si ascolta nelle nostre case, nelle nostre vite, sente tutti i giorni, la festa nazionale, le feste. Por la música ya más adolescente con el punk, del punk me moví al ska, después llegué al poi da adolescente el punk, poi dal punk allo ska, poi il reggae. Y seguí escuchando muchos más estilos, hip hop, funk. Ho ascoltato molti stili, pop, funk. Y de a poco empecé a retomar la cumbia cuando estaba en la universidad y a escuchar los clásicos de cumbia. Ho ricominciato a sentire i classici della cumbia di nuovo quando ero all'università. Che stavano emergendo in ese tiempo como Chico Trujillo. Perché venivano riportati fuori anche da tanti gruppi come Chico Trujillo o gruppi che mischiavano un po' di ska e punk con la cumbia in un modo molto strano e speciale. Y parallelamente seguí trabajando en esto de la música electrónica. E parallelamente continuavo a lavorare sull'elettronica. De un montón de tiempo voy a Argentina. Dopo molto tempo vado in Argentina. Termino en una fiesta que aparentemente era de hip hop y drum and bass. Finisco en una fiesta donde aparentemente se sentía hip hop y drum and bass. Y como que a un certo punto appare come un ritmo di cumbia. Fue una sorpresa total e non ci potevo credere, mi sono rimasto una sorpresissimo. Musical de los géneros. Perché si mischia benissimo con gli altri generi. Non ho mai saputo chi è stato a metterla, chi l'ha suonata, ma che mi è rimasto impresso. Quedó grabado en el cerebro para siempre. Ma mi è rimasto luego registrato in testa per sempre. Poi sono tornato in Cile e allora ho pensato all'idea di mettere insieme la musica elettronica con ritmi cumbieri o comunque di radici latine. De presencia de ritmos afro. Quindi anche ritmi afro-caraibici, usando un po' il guiro, i timbales. De lo que había escuchado en la sonora de Tommy Rey, que es una banda de música. Per esempio, ho remixato Tommy Rey, che è una musica molto conosciuta di cumbia classica in Cile. Tito Puente, oppure Tito Puente, appunto, le percussioni famose. Quello che passò más in Centroamérica. Y empecé a integrar algunos elementos y fue difícil en el comienzo porque la cumbia es un ritmo que tiene mucha fluidez y la producción no è stato facile en algunos casos perché la cumbia è molto fluida, quindi l'elettronica è un po' più quadrata. Un proceso de crecimiento, luego me fui a Argentina a vivir un tiempo y estuve escuchando mucho este nuevo género que había aparecido de la cumbia. Sono tornato in Argentina, ho continuato a ascoltare questo nuovo genere che si sentiva là. Un mondo molto personale. E después de volver de Argentina a Chile nuovamente a vivere, se me ocurrió publicare un par di cose. Allora lì ho prodotto qualcosa in maniera molto personale. Quando sono tornato in Cile, mi si è aperta l'occasione di pubblicare qualcosa, e allora lì ho fatto nascere Chile, il signor Chancho. Particolarmente in Argentina fue como una reconexión con las raíces cumbieras y andare tra l'Argentina e il Cile per me è stato un modo anche di riconnettere anche tutte le altre influenze latine, quindi colombiane, peruviane. Logró integrar prácticamente a toda Sudamérica en un solo género musical y eso es muy interesante. Entonces cuando publico estas primeras canciones que eran remixes de canciones clásicas de cumbia. Quindi comincio a pubblicare questi primi remix di canzoni classiche della cumbia. Son remixes que casi no plantean un cambio importante, más que de repente lograr que la cumbia. Che non sono molto significativi come successi, ma sono una dimostrazione che per esempio la cumbia può entrare in una festa dove c'è anche chi mette elettronica che suonava comunemente. Un par de meses después me contacta DJ Murúa de Chile. Que tenía ya un programa que venía recorriendo la cumbia clásica. Dopo questo mi contatta DJ Murúa di Chile, que aveva un programa radiofonico che andava dalla cumbia più antica a quella più moderna. Si podía poner su música, e mi chiede se poteva mettere la mia musica in una festa. Su programa de radio. E nel suo programma radiofonico. Fue una sorpresa para mí. Fue maravilloso. E questo chiaramente per me fu meraviglioso, una sorpresa incredibile. Quindi mi sono sentito molto con Murúa. Música por cientos de horas. Y decidimos abbiamo ascoltato insieme cumbia veramente per centinaia di ore. La idea de hacer una fiesta era básicamente e abbiamo deciso di fare delle serate. Questo semplicemente per poter far ascoltare la nostra musica. La musica de nuestra raíz, que le musiche delle nostre radici, che in questo caso era la cumbia, ma hacerla sonar y publicarla o compartirla, anche poterla pubblicare, compartire e farla girare con persone che non la conoscevano oppure con coloro che non si connettavano molto con questo, non gli era mai arrivata. Algunos lugares de la sociedad, perché la cumbia comunque in alcuni luoghi della società per alcuni tratti socio-economici vive un po' in pregiudizio. Quindi l'idea che abbiamo avuto è stata quella di facciamo delle feste e mettiamo questa musica che ha qualcosa di elettronico, qualcosa di cumbiero, e cerchiamo di fare in modo che la gente la ascolti. Nos dimos cuenta que era algo demasiado nuevo. In alcune di queste feste ci siamo accorti che sembrava che era qualcosa di quasi troppo nuovo e troppo esotico per il nostro pubblico. Nos pusimos a trabajar en una compilación musical. E allora abbiamo cominciato a fare oltre alle feste una compilation musicale. Él se había conectado con Quechua Boy de Murúa, aveva tantissimi contatti, Quechua Boy di Perù. Tribilin Sound sempre del Perù, aveva dei link con l'Argentina, messicani. Entonces hablamos con ellos y les preguntamos si les interesaba publicar alguna canción. Quindi abbiamo parlato con loro e abbiamo chiesto se gli andava di pubblicare alcune canzoni nuove in questa compilation, perché volevamo che questa musica si ascoltasse in Cile. E lì siamo arrivati a fare quella che è la prima pietra di Sello regionale. Si chiamò Temporal Volume 1. Il compilation si chiamava Temporal Volume 1. Da allora abbiamo già pubblicato tre volumi, un quarto volume di remix e un quarto volume di remix che è stato molto bello anche. Conjuntamente, además de hacer estas compilaciones e oltre a questa compilation, il fatto di poter mettere la musica nelle feste, abbiamo deciso che pubblicare musica era qualcosa che ci usciva di maniera facile, ci funzionava bene. Allora abbiamo cominciato a selezionare artisti che reputavamo buoni, che a volte per insicurezza o per mancanza di soldi non pubblicavano la loro musica. Alcuni abbiamo chiesto perché non hanno pubblicato la musica prima, ci dissero ma non so esattamente qual è la ragione, però probabilmente se qualcuno mi avesse aiutato l'avrei fatto. Así que consideramos hacer sello regional. E quindi sello regionale voleva diventare questo, la possibilità. Abbiamo fatto una riunione. El tercer fundador de sello regional seríamos Francisco David, señor Chancho, Martín Manríquez, DJ Murúa y David Bugueño, que es conocido como el Buga. Perfecto. Entonces éramos señor Chancho, DJ Murúa y el Buga, los tres fundadores de Regional. Questi erano i fondatori del sello regional. Hanno cominciato a chiamare tutti questi artisti che avevano voglia di pubblicare, o qualcuno che neanche aveva l'idea di pubblicare, ma insomma l'abbiamo convinti, qualcuno l'abbiamo influenzato, qualcuno l'abbiamo aiutato e abbiamo iniziato a pubblicare tutti questi piccoli dischi, 3, 4, 5 canzoni, e fino ad oggi abbiamo un catalogo di circa 250 release. Quindi siamo molto contenti, e in qualche modo stiamo permettendo che la gente possa pubblicare la musica in una maniera più facile, più semplice, mettendola su una piattaforma senza che ha come indicazione unica quella di compartire la musica. Y eso también imagino lo hacen porque ven la respuesta, o sea, al lado de lo que tú me estás contando, cómo ha cambiado también la respuesta de la gente. Tú me estás diciendo que, por ejemplo, la cumbia ya venía más de los barrios populares. Imagino que avete fatto tutto questo anche perché avete visto la risposta. Mischiare la cumbia con l'elettronica significa anche far incontrare due mondi che erano un po' lontani. Chi ascoltava la techno, l'elettronica, guardava male un po' snobbamente la cumbia. Il tema della mezcla fu come il primer punto, la prima barriera d'entrata. Il tema di mischiare è stata la prima barriera per entrare. Che non è nata esattamente col sello regionale, ma nelle prime feste. In caso particolare del Cile, la musica elettronica generalmente è molto relazionata con le classi socio-economiche alte, che erano quelle che non ascoltavano la cumbia. Quindi quello che si ascoltava in quel periodo era i deep house, qualcosa di molto profondamente elettronico, dove la gente voleva sentirsi come se fosse a Berlino, a New York, a Londra, a Ibiza, diferenziarsi da questo Cile popolare che suonava invece la cumbia, che va la cumbia in la fiesta nacional, che va la cumbia, che va la cumbia alla festa nazionale, che basta la cumbia, che balla la cumbia a casa con la famiglia. Hacer las fiestas, quindi fare queste feste, facendo queste feste ci siamo resi conto che il nostro pubblico elettronico non si convinceva molto, non gli piaceva l'idea che si stesse mettendo la cumbia o il folklore caribegno nelle loro serate, in questi beats elettronici. E dall'altra parte il cumbiero medio per lui era molto strano che cominciavamo a mettere dei beats de house o differenti stili, incluso l'hip hop, nella cumbia. Solamente io conosci un solo antecedente donde io ho conosciuto un solo precedente dove nell'ambiente dello ska punk cileno si è cominciato a mettere molta musica latina, principalmente salsa, però anche la cumbia è riuscita a avere il suo spazio alla nuova cumbia cilena, che e questo ha dato la nascita alla nuova cumbia cilena, che ha generato Chico gruppi Trujillo, come Chico Trujillo, come la Sonora de Llegar e un montón de bandas, e un sacco di altre bande che adesso ce ne stanno tantissime, insomma, Villa Cariño, Chorizo Salvaje, tantissime bande che sono molto interessanti, ma che non entravano nella linea dell'elettronica, la integrano più con rock un pochino. Ora perché i tempi sono moderni, la gente è più aperta, c'è molta connettività con internet, ma molto si desarrollò tra lo ska punk latino, era parallela a quello che succedeva con l'elettronica. Quindi nelle feste ci siamo resi conto che a nessuno degli due gli piaceva molto l'idea di mischiare. Quindi la prima cosa che facemmo fu quella di pubblicare la musica per cercare di creare il pubblico che ascoltava questa musica, che ascoltava questa musica. Los primeros compilados, empezar a ayudar a gente y generar de alguna manera una plataforma para los músicos emergentes de esta electrónica entre folclore y cumbia. No, eso porque también me está diciendo que lo usted publicaban estaba a la portada. Questo anche perché quello che pubblicavate era la portata di tutti, quindi un altro modo perché la musica possa arrivare alle persone, non la mettere esclusiva. Esatto. Bueno, desde el principio nosotros hicimos esattamente, all'inizio l'abbiamo fatto, tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto erano gratuite. Tu potevi fare una donazione, ma anche se non la facevi potevi comunque scaricare dei buoni MP3 di buona qualità per escucharla, mettere nel tuo club o nelle feste o dove volevi. Vas a poder hacerlo sin la necesidad de pagarnos. Y eso también senza la necessità di pagare. Todos los artistas que hemos impulsado. Questo è anche quello che abbiamo messo un po' come linea, che quindi tutti gli artisti che lavorano con noi accettano e promuovono. Abbiamo un lavoro comune dove diciamo che la musica non è necessario venderla perché la gente la possa apprezzare. Sí, me parece muy bueno eso, o sea, fundamental también por cómo le dio la posibilidad también de girar. Tú me decías el hecho que tú llevaste la cumbia en Roma, ¿no? A mí me emociona mucho porque me sentí por años loca, pero de verdad no solo tú estás trayendo una música, estás trayendo como una manera, una visión de las cosas, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Y cuáles son los grupos, digamos, tradicionales? O ¿Cuáles son i gruppi tradizionali ma più moderni che ti piacciono di più? Bueno, hay muchas influencias musicales en mi mundo, experienciale o en mi vida. Ci sono molti tipi di musica classica, nella mia esperienza. Da Bach, per lo stile, però quello che mi ha influenzato nella creazione del signor Chancho in maniera particolare. Potrei dirti che innanzitutto da quando ero piccolo, per esempio Tommy Rey, dove c'è appunto Tommy Rey, lo Viking Five, bande super classiche che fino ad oggi molti padri di famiglia della nostra generazione continuano a ascoltare con molta nostalgia. Dall'altra parte c'è l'influenza appunto di gruppi come Chico Trujillo, che in qualche modo hanno provato a ridare indietro alla cumbia come un tropico fondamentale della musica nazionale e non solo come una musica per ballare, ma anche una musica che ha un buonissimo livello di qualità musicale. Chico Trujillo fondamentalmente. Y por otro lado también está la influencia que es regional, diría. Dall'altra parte c'è l'influenza regionale che è di Latinoamérica. Yo escuchaba también junto con bandas clásicas como la de Tommy Rey, escuchaba insieme alle bande di Tommy Rey ascoltavo anche Tommy Enrique che è di Colombia, Nicky Laure. Con la sua cumbia anche molto classica del Messico. Y también hay una influencia regional. E poi c'è un'influenza regionale più moderna, che principalmente la devo a ZZK, che è un gran segno, il prepulsore della cumbia elettronica. E da lì già io ascoltavo molto il Remolon, Cianciavia Circuito, che ha cominciato a lavorare molto più col folklore, sempre portandolo a livello di club per poterlo ballare, ma ha lavorato con un folklore molto ricco, non solo la cumbia, ma ha esplorato le Ande proprio. Poi c'è Via Diamante che tira fuori dei mixtape sempre da sorpresa. Y así yo creo que se configuró un poco la idea de così credo che si è configurata un po', si è configurata un po' l'idea di sentirmi bene con questo genere e dire di fare un progetto che collabori in questo spazio della musica. Ho creato il signor Chancho mischiando beat elettronico con cumbia, mischiando il beat elettronico con ritmo caribegno, mischiando anche un po' di dembow. Sono sempre stato un fanatico del dumbfall, alcune cose del reggaeton anche mi sono piaciute, soprattutto a livello ritmico e melodico, perché c'è un conflitto, per esempio ho col reggaeton, perché è molto macista, ha tutta questa come genere pop che nel mondo reggaeton che non mi piace, ma finalmente al finale comunque il ritmo, la capacità di far muovere il corpo mi piaceva molto, la musica afro anche, ciò che ha fatto Santana di integrare tanta salsa in maniera così africana insieme al rock. Insomma, tutto questo mix mi ha fatto dire sì, io posso in qualche modo fare una cumbia fluida, elettronica, con beats di reggae, con beats di dub, con beats di dancehall, di dub, e generare qualcosa di nuovo che funzioni. Così ho cominciato a lavorare molto nella composizione, mi sono anche reso conto che la composizione è quello che più mi piace, che mi assorbe, potevo stare anni e anni seduto davanti al computer con la tastiera cercando di comporre musica, musica, musica. E mi sono reso conto che questo era il lato che mi piaceva molto di più, che piuttosto che suonare dal vivo, che è qualcosa che faccio, ma che è qualcosa che faccio più perché è un po' mio dovere da musico. Eppure perché è un modo di fare sostenibile finanziariamente il poter riuscire a lavorare in musica, che è quello che vorrei riuscire a fare, a cui mi piacerebbe più dedicare il mio tempo. Così ho iniziato a comporre, ho pubblicato il primo EP del Signor Ciancio, quando Sello Regional già aveva un po' di tempo. E per sorpresa un sacco di gente mi ha fatto buonissimi commenti del primo disco. Tra questi c'era il Remo Lon, che mi ha chiesto l'amicizia su Facebook, e quindi che vi proporremo la prossima trasmissione, tra l'altro. E mi ha detto: oye, ho sentito il tuo disco, mi piace molto la terza canzone, voglio una canzone, facciamo una canzone come un po' la tua del disco. Spazio che necessitava llenar, e también fue una especie de motivador máximo. E anche lui è stato un po' una grande motivatore massimo, perché io lui lo ascoltavo da tanto tempo, e quindi il fatto che si fosse avvicinato a me e mi avesse detto che la mia musica aveva qualcosa che gli piaceva è stato veramente il sogno del pibe. Bueno, ellos siempre han sido muy, muy inspiradores, y también por otro lado han sido una gran ayuda, porque también se contactaron con Regional, empezaron a colaborar. Per me, oltre a essere molto ispiratori, sono stati anche un grande aiuto, perché avvicinandosi con Regional loro sono stati, è stata un'aggiunta molto importante. Quindi pubblico il disco, ho tutto questo feedback e quindi già non ho dubbi su quello che voglio fare, cioè comporre musica e fare ballare le persone, fargli ballare la cumbia anche se non la conoscono, incattivirla, comunque contaminarla con qualche stilo più benvenuto, in qualche modo fare entrare la cumbia così che la gente possa assaporare questo nuovo sapore, abituare il palato musicale. Allora, raccontaci ahora, dove sta andando la cumbia, bueno, ora. La cumbia ora, io credo che sta tenendo un momento molto importante. La cumbia ora sta avendo un momento molto importante. Lì in Latino America pensiamo che la cumbia non solo è il passato e il presente, sino che è il futuro. Ha detto. Penso che possibilmente la cumbia arriverà a imporsi a livello mondiale, a essere un ritmo così conosciuto come la salsa, e anche tanto benvenuto come la salsa, che anche, insomma, per sorpresa anche qui in Europa mi pare che funzioni molto. È salsoteca in Francia, in Italia, in Germania, in Edimburgo abbiamo trovato due posti di musica latina che andavano molto, insomma, di moda. Quindi io credo che la cumbia in qualche modo si può consacrare a livello mondiale e diventare un elemento rappresentativo di Latino America in generale, e questo credo sia un punto molto importante. La cumbia è uno dei pochi ritmi che è arrivata a unificare quasi tutta Latino America. Tu puoi ascoltare cumbia o variazioni di cumbia in Argentina, in Cile, in Perù, in Bolivia, incluso nel nord del Brasile, in Colombia, in Venezuela, in Centro America, in Messico. Quindi è una forma, anche una carta di presentazione per tutta Latino America unita, che è qualcosa che a mio pensiero sempre deve essere considerato davanti a qualsiasi paese c'è Latino America. Non c'è solo Cile, ma c'è il Cile con l'Argentina, con il Brasile e con tutti. Quindi mi sembra che in questo momento la cumbia abbia questo potenziale, in qualche modo si sia potenzializzata anche con noi, non solo la cumbia, ma anche altri ritmi andini o ritmi argentini, ritmi brasiliani, in qualche modo rappresentare tutta Latino America a livello mondiale. La cumbia sarà il futuro musicale di Latino America. Sì, insomma, lo sapete, io lo dico sempre, in generale la cumbia è il futuro. Allora, io ti dico grazie, signor Ciancio, non so se vuoi aggiungere algo más a mis preguntas, o si quiere decir dónde se puede encontrar tu música, bueno, ya la red, yo creo que... Allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se ci vuoi dare dei link per bajare la tua musica, per scaricare la tua musica. Un link particolare. La musica del signor Ciancio la puoi... La musica del signor Ciancio la potete trovare in soundcloud.com/srciancio. De señor Chancho y de poi potete trovare tutta la musica del signor Chancho e Sello Regional in www.selloregional.com. Lì potete anche connettervi con la pagina di SoundCloud per scaricare la musica e vari social network per usarla, poterla diffondere usarla dove volete, perché avete il diritto a usarla e di sfruttarla come volete. La nostra musica è completamente gratuita. Bueno, no sé cómo agradecerte, de verdad, es una felicidad saber que vienes tú y en 10 días viene Remolón y ya empieza a moverse aquí, porque de verdad, por mucho tiempo Italia fue un poco cortada fuera de lo que se movía por la demás Europa, ¿no? No sé por qué, pero ya alcanzamos, entonces yo sé que ya estamos en relación. Ahora a mí me toca viajar, señores, porque todavía viene por aquí, pero ahora a mí me toca. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y quién sabe la próxima vez la vamos a montar también con el... Allora sí, insomma, i saluti e chissà un augurio che il signor Ciancio un giorno possa incontrare. Y gracias a la radio porque dan la oportunidad de hacerse... Grazie alla radio perché danno l'opportunità di farsi conoscere e soprattutto voi che lo fate di una prospettiva molto indipendente. E allora, veramente, queste sono le fortune che capitano a Radio Onda Rossa. Devo ringraziare in particolare il Pince Domingo che ci ha dato questa possibilità, lui che smanetta e viaggia anche virtualmente per il mondo. E allora ci sentiamo giovedì sugli 87.9 di Onda Rossa alla Schiena del Soul. Otto minuti, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. E quindi il saluto, ringraziamento ancora una volta, questa volta in diretta, va Francisco, grande signor Ciancio. Con l'augurio veramente che ripassi di qui, incontrarci col Frente Cumbiero sarebbe veramente galattico. Capito dove arriva la cumbia? Io qua fatico, ma mica lo dico solo io, E allora alle 17.09 minuti, ecco, ciao. Alle 18.09 minuti andiamo a chiudere questa puntata un po' extra large. Abbiamo rubato qualche minuto al redazionale che, come sapete ormai, tutti i giovedì dalle 18 alle 20 ci informa, ci fa anche, insomma, altro che informa, ci tiene ben informati, si dibatte, si ascolta bene quello che accade in questa città, perché quel percorso che prima si riusciva a fare in un quarto d'ora con i mezzi, che comunque non erano il massimo, adesso ci vogliono 40 minuti. Così, un esempio qualsiasi. Insomma, parleremo, come sapete, si parlerà di Attack, ma non solo. E allora, io vi do una pausetta musicale. Lo sapete, il 3, insomma, adesso senza nulla voler togliere di scasso, c'è anche la presentazione di Scarcerando al Nido di Vespe, con una buonissima cena e concerto. Quindi un po' di musica, spottini e poi i redazionali di Radio Onda Rossa. Ancora in sottofondo il grande signor Ciancio dal suo Insalata e Frutta. Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que... Pacto viscum donna. Fate fico di me.